Il mondo dello sport nel nostro paese se la sta passando maluccio. Qualcuno ha improvvisamente scoperto quello che a quanto pare sapevano tutti, cioè chi pratica sport è indotto ad assumere sostanze che in un modo o nell'altro gli facciano migliorare la prestazione, e ciò ha fatto scandalo. Un po' come nella cosiddetta Prima Repubblica, dove tutti sapevano che tutti rubavano, ma c'è voluto qualcuno che facesse finta di non averlo mai saputo per creare lo scandalo. Se l'analogia regge e regge, il mondo dello sport può allora stare tranquillo, no? La cosiddetta Seconda Repubblica ha già dimostrato che le cose possono continuare esattamente come prima, e così dunque sarà anche per il doping. Per dare un'idea del fenomeno, comunque, mi sia concesso ricorrere a due documenti. Il primo è un dépliant illustrativo dei prodotti messi a disposizione degli atleti da un'azienda specializzata. Vi si spiega con chiarezza scientifica quando occorre intervenire ingurgitando qualcosa di specifico all'uopo per far sì che la prestazione sportiva tocchi i massimi vertici toccabili dall'atleta che vi fa ricorso. Allora, c'è qualcosina da prendere al primo mattino del giorno di gara, a colazione. C'è qualcosina anche per metà mattinata e ovviamente c'è qualcosa per il pranzo, e siamo a tre. Poi c'è qualcosa per le prime ore del pomeriggio e c'è qualcosa per un'ora prima della gara, e siamo a 5. Ma non bisogna dimenticarsi di assumere un prodotto specifico anche mezz'ora prima della gara. È fondamentale quell'altro creato apposta per essere assunto 15 minuti prima. Siamo a 7. Ma non è finita, perché il più importante è quello da assumere un minuto prima di scendere in campo. Siamo a 8. Poi ovviamente c'è quello per l'intervallo, e altrettanto ovviamente c'è quello per il dopogara. Siamo a 10. La scienza della prestazione sportiva ha segmentato la vita dell'atleta prima della gara in ben 10 fasi, e da ciascuna di queste fasi è riuscita a correlare la miscela chimica più idonea. Nemmeno in un ospedale si riesce a scandire in modo così raffinato il tempo e le operazioni terapeutiche. E infatti negli ospedali stanno i malati, mentre si presume che gli atleti siano sani. Il secondo documento è un manuale di fisiologia umana e di metodologia dell'allenamento, uno dei più autorevoli, a firma del danese Jens Bangsbo. Dal capitolo sulla termoregolazione, veniamo a sapere che la temperatura rettale di atleti professionisti sotto sforzo si aggira in media sui 39,5 gradi centigradi, mentre quella degli atleti dilettanti nelle medesime condizioni si aggira in media fra i 39 e i 39,2 gradi centigradi. Si tratta di dati rilevati nell'arco di tempo che va dal 1978 al 1986, che, se da un lato confermano il rapporto strettamente ideologico fra analisi scientifica e cultura del doping, un rapporto di mutua dipendenza, e dall'altro ci spiegano che, essendo il fenomeno così diffuso, l'antica differenza fra il dilettante e il professionista è ormai quasi del tutto venuta meno, non soltanto per quel paio di gradi centigradi che costituiscono una differenza ormai di poco conto, ma perché è chiaro che, pur di ottenere il risultato supremo, sia i dilettanti che i professionisti, entrambi, sì, sono pronti a farsi misurare da qualcuno, e con qualcosa, perché non può essere misurata a occhio, la temperatura rettale.